Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto e un caro saluto anche da parte di Gloria Guerrera, la nostra redattrice, di Alessandro Chiappini, il nostro regista, e insieme a voi salutiamo una guida speciale questa settimana, Arrigo Petacco, benvenuto. Grazie. Beh, parlare di Arrigo Petacco è, diciamo, un'operazione molto complessa, perché tra libri, qualche romanzo, la sua attività giornalistica, la sua attività come sceneggiatore di film, di programmi televisivi, diciamo che un quasi sessantenne come me deve ammettere che praticamente quasi ogni giorno c'è così un piccolo sguardo della realtà trasmesso tramite l'opera di Arrigo Petacco, e questo forse è un po' la chiave della tua vita, che sei riuscito così a farci arrivare ad avere sguardi sull'orizzonte, però partendo sempre da piccoli momenti provvisori di vita. Grazie. Sì, io comunque vengo definito storico, io sono un giornalista, soprattutto un giornalista che a un certo punto ha scoperto che nella storia, nella nostra storia raccontata, c'erano molti buchi neri, e io qualche buco ho cercato di colmarlo. E qui mi pare che vada bene a fagiolo, come si dice, la massima con la quale partiamo per questo nostro piccolo cammino. Quando comincia una guerra, la prima vittima è sempre la verità, perché pur di demonizzare l'avversario si racconta un sacco di palle. Quando la guerra finisce, le bugie degli sconfitti vengono mascherate, quelle dei vincitori diventano storia con la S maiuscola. Non è così forse? La storia la scrivono sempre i vincitori, e quindi la storia è piena di bugie. Però noi siamo dentro una cultura, e poi per un fenomeno credo tipico proprio dell'Italia, comunque sono anni che io pongo la domanda ai diretti interessati, ma non mi rispondono, comunque non mi danno risposte soddisfacenti. Partendo cioè dal centralismo pedagogico di Giovanni Gentile, poi subito acculturato dopo la guerra da quelli che un tempo erano i pedagogisti comunisti marxisti, noi abbiamo dagli anni 30 fatto l'opzione di considerare la storia come base e vertice del percorso educativo dei giovani italiani, per cui in realtà tutto ciò che veniva insegnato attraverso le scuole aveva come paradigma il ricordo, la celebrazione di quello che era stato il percorso storico della civiltà, prima romana e poi italiana, con le aggiunte dei vari apporti forniti dalla modernità. Per cui abbiamo guardato persino l'arte in chiave storica. È vero, è vero, è vero. Però io ritengo che appunto la storia, tutti dicono la storia è maestra di vita. Saremmo maestra di vita se tutti la studiassero, purtroppo non è così, e quindi spesso si ripetono gravi errori, eccetera, eccetera. Tu che hai studiato, diciamo così, tutta una serie di buchi neri della storia, perché poi in realtà a volte sono episodi, vicende che abbracciano mesi o un paio di anni, ma a volte soprattutto sono episodi che abbracciano veramente una giornata di storia, la liberazione di Mussolini, al Gran Sasso. Quanto durò quell'operazione? Quell'operazione lì, quello ne ho fatto anche un documentario con Sergio Zavoli e anche un libro con Sergio Zavoli, che appunto si intitolava Dal Gran Consiglio al Gran Sasso. E effettivamente la storia scriveva e ancora scrive che a liberare Mussolini dal Gran Sasso fu questo colonnello delle SS che si chiamava Otto Scorzeni, che non è affatto vero. Noi abbiamo cercato sia in televisione che in un libro di dimostrare chi fu il vero liberatore Mussolini, un maggiore dei paracadutisti che si chiamava Harald Morse. E però continua ancora adesso, però Scorzeni quello che ha liberato forse Mussolini. Era più fotogenico, che aveva le cicatrici dei due anni sulla faccia. Aveva la mansura sulla faccia, era un grande raccontapalle. Anzi, se potrei raccontare un aneddoto, lo posso raccontare? Prego. Allora, Zavoli e io rintracciamo Scorzeni a Madrid, dove viveva ovviamente perché la zona libera, c'era ancora il franchismo, e fra l'altro si mancava il liberatore Mussolini, eccetera eccetera. Noi abbiamo dimostrato che non era vero, però l'abbiamo intervistato e gli abbiamo fatto raccontare la sua versione, e la raccontò con molto, lui era molto spaccone e si divertì molto soprattutto dicendo ho preso in giro i carabinieri che guardavano Mussolini a Campo Imperatore, li prese molto in giro dicendo ah quel capitano poverino va lì con un fiasco di vino in mano, saluto il vincitore, raccontò insomma mettendolo in ridicolo. Finita l'intervista ci fermiamo lì con lui in albergo, pranziamo con lui e praticamente lui era insieme a una compagna, una bella donna, una bella tedescona, bella robusta, un'insegnante di ginnastica, e pranziamo con lui, lui beve molto vino, continuò a sghignazzare, a un certo punto la signora si alzò e andò via, salutò tutti. Qualche minuto dopo il mio operatore, un simpatico giovanotto, anche lui si alzò e disse buonanotte, io invece Zavoli restammo con lui a lungo, con Scorzeni. Poi più tardi, quando andai a letto io, salì in albergo e incontrai nel corridoio buio il mio operatore che gattaio. Dove vai? Dottore. Dice, ma da dove vieni? Era uscito dalla camera della tedescona. Ma che fai? Mi dice, dottore, ho vendicato i carabinieri. Beh, questa è, diciamo, sì. E questo era Otto Scorzeni, un grande spaccone che però appunto il mio operatore lo ha cronificato. Diciamo. Sì, aveva subito così scoperto dove stava esagerando in quell'occasione. Appunto. Poi tra l'altro ci sono, tu hai scritto anche un saggio, diciamo così, Storia bugiarda, pubblicato dalla Terza nell'89, anche sì, con alcune categorie storiografiche. Poi successivamente nel 90 hai pubblicato un libro, perché ricordo molto, molto bene, lo vedo citato qui nel curriculum, Viva Gesù, Viva Maria, Viva Italia, Ugo Bassi, il cappellano di Garibaldi, perché Garibaldi, noto anticlericale, viaggiava comunque con un codazzo di preti, frati. Ma perché lui era credente, a modo suo era credente. E questo libro l'ho fatto perché, confesso, l'ho scritto questo libro, che era la vita appunto di Bassi, il famoso Barnabita, fucilato a Verona dagli austriaci. Perché Bettino volle fare un film su questo Bassi, e a quell'epoca lui era potente e mi disse bisogna fare un film, e scoprì dopo una settimana mi mandarono a chiamare dalla radio e dice bisogna fare il film. Però era strano, Garibaldi era molto amato dai preti colti appunto come Bassi Barnabita e dai cappuccini che erano un po' i fratacchioni popolari, quello che gli mancava era il consenso della classe intermedia. E certo, infatti questo film che ebbe molto successo, io lo scrissi, ma lo fece Giorgi Magni come regista, c'era Proietti, c'era Sordi, un bel film, e praticamente Craxi sperava di far che lo beatificassero, non ci si pensa, un santo garibaldino, e il padre generale di Bernabetti dice no, guardate, non si illuda il presidente, il papa, no, non faranno mai santo come Bassi perché ha disobbedito al papa, che il papa era Pio IX. Infatti fu una delle tante delusioni che ebbe Bettino. Beh, adesso abbiamo messo insieme un po' di spacconaggine nazista, un po' di idealismo italiano, un po' di fatti più o meno attinenti a vasti orizzonti. Siamo partiti da questa verità che la storia presenta ma che va valutata. Viviamo dentro un momento storico in Italia dove noi abbiamo coscienza che poi in realtà la storia che abbiamo vissuto andrebbe, se non proprio rivista, comunque rivalutata con un minimo di serenità? Sarebbe anche ora di rivalutare tutto quanto. Bisogna rivalutare, io penso, anche Mussolini, perché Mussolini, a parte che fu un dittatore, all'epoca i dittatori erano parecchi, fra i tre del momento, Stalin, Hitler, Mussolini, io avrei preferito vivere in Italia che non in Germania o in Russia, perché senza dubbio era il più umano. E ha fatto anche delle cose molto importanti, che ora si sta anche riconoscendo. In quei 20 anni che è stato lui al potere, no? In Italia, l'Italia ha cambiato volto. Noi li abbiamo, cioè praticamente poi lo abbiamo nascosto, offeso, condannato in tutto, e non riconoscendo invece la parte buona che sicuramente c'è stata. Io penso che se uno dei tanti attentatori che hanno cercato di ucciderlo avessero ucciso Mussolini nel 1936 dopo la conquista dell'impero, probabilmente avremmo un monumento in più nelle piazze di lui. Beh, comunque questa storia la fa Petacco, l'ha fatta pure Bocca recentemente, Poi abbiamo visto anche che in genere quando i giornalisti si addentrano in questi spazi più o meno grigi, insomma, parte il fuoco ho già capito. Dire, come ci si sente da impallinati? Ho già capito, ma ci si sente che il fuoco parte, diciamo, dagli storici accademici, ti riferisco a questo. Ma però ecco perché noi dobbiamo essere molto, molto, molto vicini alla verità, insomma, molto raccontare tutte cose documentatissime, perché altrimenti ci impallinerebbero per davvero. Arrigo Petacco, la nostra guida, l'autore di La strana guerra, un libro in libreria per Mondadori, uno dei suoi libri di storia e di racconti di vita vera. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E di Arrigo Petacco, la nostra guida questa settimana. Di Arrigo Petacco è appena giunto in libreria La strana guerra, 1939-1940, quando Hitler e Stalin erano alleati e Mussolini stava a guardare per la Mondadori. Qual è il secondo punto di partenza di questo nostro percorso? La prima massima riguardava la storia dei vinti che viene sbugiardata, le verità o le bugie dei vincitori che diventa storia con la maiuscola. Ma veramente io mi fermavo sempre su questa massima. E allora proviamo a vedere, diciamo così, di ricavarne ancora qualche altra riflessione, perché nella lista delle tue pubblicazioni sono presenti molti titoli che riguardano da vicino o da lontano ciò che è avvenuto in quella parte dell'Europa che era stata sottratta all'Occidente dal 45 fino alla fine degli anni 80 e poi è stata restituita all'Occidente. Si parla di Polonia, si parla di guerra in Russia, si parla di tanti elementi che erano, diciamo così, parte della nostra storia, messi, diciamo così, nel dimenticatoio. Appunto. E poi, Io infatti in questo libro ricordo, perché ho compreso che molti italiani hanno dimenticato che nei primi due anni della Seconda Guerra Mondiale Hitler e Stalin erano alleati e da buoni compari si sono spartiti appunto quella parte soprattutto la Polonia, e Stalin poi si è preso tutti i paesi baltici, poi ha cercato di prendersi anche la Finlandia, ma non ci è riuscito, perché i finlandesi sono riusciti addirittura a fermare l'Armata Rossa, Davide contro Golia praticamente. In quel periodo lì l'Italia, Mussolini stava a guardare, per il gioco delle alleanze, essendo alleato alla Germania avrebbe dovuto aiutare l'Unione Sovietica, mentre invece aiutò la Finlandia, e la cosa fece molto arrabbiare Hitler, fra l'altro, e lui intervenne, praticamente cercò, questo sempre nel periodo in cui l'Italia era non belligerante, cercò segretamente, di forse d'accordo con gli occidentali, di spingere Hitler contro l'Unione Sovietica. Ci fu in quei mesi lì un certo lavorio che poi non se n'è più parlato, perché poi più tardi Stalin è diventato buono, perché è diventato alleato degli occidentali, e quindi gli scheletri sono stati sepolti in armadio. Ma in quel periodo lì Francia e Inghilterra, pur essendo in guerra contro la Germania, non spararono un colpo. Per 9 mesi sulla linea Maginot non si sparò un colpo di fucile. Perché? Mentre si sparò molto in Finlandia. Perché? Perché in quei mesi lì si cercò in tutti i modi di combattere contro l'Unione Sovietica. Cioè praticamente si pensava più a combattere Stalin, che in realtà era fuori dalla, diciamo, che contro i tedeschi che stavano che erano lì sulla linea Maginot. E perché ci fu un tentativo di ribaltare le alleanze praticamente tutti insieme contro la Russia, Hitler e Mussolini compreso. In questo periodo nel mio libro c'è addirittura una lettera personale che Mussolini mandò a Hitler per convincerlo a questo ribaltone. E la cosa curiosa è che l'originale di questa lettera io l'ho ritrovato nella borsa, nella famosa borsa che Mussolini aveva con sé a Dongo. E perché se la portava presso questa borsa? Io penso, per mostrarle a qualcuno, dicendo: vedete, io ci ho provato a fermarlo e dirottarlo, e non sono riuscito, e quindi insomma una forma di giustificazione, di prova di scarico. A me la cosa che stupisce è che prima che succedessero questi fatti, o nell'Europa in cui questi fatti si preparavano e poi successero e poi, diciamo così, si sono concatenati, quella specie di reazione a catena, prima di Danzica, gli italiani lasciavano l'Italia e andavano a cercare fortuna in Polonia. I francesi pure, i più poveri andavano a cercare fortuna in Polonia, era terra che attirava l'immigrazione. Poi è stata restituita all'Europa e, diciamo così, in Francia qualche anno fa era argomento di battaglia politica l'invasione degli idraulici polacchi. Non dimentichiamo che nel 38-39 la Polonia e anche la Cecoslovacchia erano i paesi a più alto reddito d'Europa. Ecco perché andavano. La Cecoslovacchia era ricchissima, la Polonia era ricca e oltretutto governata da un gruppo di ufficiali reazionari che, quando Hitler li minacciò, loro erano convinti, dice: dopo una settimana noi marceremo, la nostra cavalleria marcerà sull'Unter dell'Indel di Berlino. Quindi non è che loro fossero i poveri polacchi timidi che Hitler ha cercato di colpire, loro erano arroganti e prepotenti, erano convinti anche di vincere. Tant'è vero che appunto c'è proprio una frase famosa che disse appunto: se Hitler s'azzarda, quando i francesi cercarono di avvertirli che Hitler stava tentando di invadere la Polonia, loro risero, il loro ambasciatore a Parigi disse: ma se s'azzardano a farlo, noi tempo una settimana siamo a Berlino con la nostra cavalleria, pensa un po'. E infatti ci provarono con la cavalleria. Ma non è che poi c'è sempre il solito interrogativo: allora la storia si ripete? Perché poi in realtà avviene pure, diciamo, da questa parte dell'Occidente, che a un certo punto abbiamo pensato che queste nazioni europee restituite all'Europa, all'Occidente, dovessero per forza avere una specie di posizione subordinata, perché con le nostre banche, con il nostro sistema economico. Poi questi in 10 anni ci stanno, per così dire. È probabile così, sì, ma d'altra parte la storia si ripete, è vero. Solo che Marx diceva: la storia quando si ripete, però dal dramma si trasforma in farsa. Speriamo che non sia così. Non possiamo, diciamo così, dietro le tue ricerche, forse mettere così in questo spazio di riflessione che in fondo l'alterigia e la superbia è sempre stato un difetto che ha sempre fatto male agli europei. E penso di sì che sia vero, ma lo vedi, la nostra abitudine è quella di vogliamo insegnare a vivere a tutti, mentre gli altri invece poi ne insegnano a noi. Noi diamo ancora agli americani, abbiamo tentato per decenni di insegnare a loro io mi ricordo libri anche di nostro intellettuale, Lettera all'amico americano, questi ragazzoni insegniamo a vivere, invece poi gli americani insegnano a noi. Ora però noi ci illudiamo che quello che è accaduto in America, anzi già pensiamo, il nostro leader questo tra assomiglia a Obama, quest'altro assomiglia a Obama, Obama è tutta un'altra cosa e probabilmente forse ci deluderà anche, perché non è il messia sicuramente, è un politico americano molto intelligente che penserà soprattutto agli interessi americani. Speriamo che non tocchi a noi pagare il conto della crisi economica che loro hanno provocato. Ma non siamo ancora anche noi portatori di quell'idea un po' romantica che un uomo poi alla fine fa un'epoca? Perché per esempio nell'ultima crociata, quando gli ottomani arrivarono alle porte dell'Europa, c'è personaggio italiano che non viene quasi manco ricordato nei libri di storia, ed è un soldato di Ventura della famiglia dei Savoia. Che era anche gay. Che era piccolo, magro, qui si chiamava Eugenio, i tedeschi lo chiamano Prinz Eugen, e fu quello che respinse praticamente l'Islam definitivamente, almeno per allora, non lo so ancora, ma allora lo respinse e praticamente da allora cominciò la decadenza dell'impero islamico. Ma oltre a questo soldato italiano dovremmo ricordare anche un altro che non era un soldato, era un frate cappuccino, Marco Daviano, che era un frate un po' così, un po' ieratico, un po' santone, un po' guariva anche i malati, e riuscì a mandare a contribuire soprattutto alla vittoria finale contro l'Islam. L'hanno fatto beato solo 3-4 anni fa, Papa Giovanni, se ne sono ricordati solo ora che lui, sì, facendo un po' arrabbiare l'Islam, hanno fatto beato. Però vorrei, posso raccontare un aneddoto? Sì, ma ricordavamo comunque due sue invenzioni, il cappuccino, cioè aver mischiato il caffè che aveva trovato nell'accampamento turco al latte, e il cornetto, che fu il dolce inventato dai pasticceri. Però il cornetto non lo fece, il cornetto lo inventò un pasticcere di Vienna, che avevano trovato il caffè, però loro pensavano che fosse mangime per i camelli. Non è vero, gli spiegò, non sapevano cos'era il caffè. Gli spiegò il caffè, la prima bottega del caffè si aprì appunto a Vienna, la prima bottega europea, il caffè per grande successo, e padre Marco D'Aviano andò appunto ad assaggiare questo caffè, non gli piaceva molto, si aggiunge un po' di latte, e questo intruglio che piacque molto, siccome aveva lo stesso colore della tonaca, di quale Marco cappuccino, nacque così anche il cappuccino. No, ma per dire che, diciamo così, poi abbiamo questa idea romantica, salvo poi dimenticarci che, diciamo così, la nostra idea piace, in fondo siamo dei grandi consumatori di storia, la usiamo solo per crearci delle piccole mitologie e poi uccidiamo i nostri miti e passiamo ad altro, magari preferiamo una bevanda e un cornetto, e la cambiamo anche sempre, tanto è vero che una massima che avrei potuto utilizzare è questa, che l'unica cosa certa è il futuro, perché la storia è sempre in movimento. Grazie Arrigo, grazie, grazie tanto. A voi. Grazie, grazie a voi. A Gloria Guerrera, grazie al nostro regista Alessandro Chiappini, grazie a voi che continuate a seguirci e a risentirci.